Salva Danaio di Deborah Rosciani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti, ben trovati a Salva Danaio, un Salva Danaio speciale anche oggi, come le puntate che vi stiamo proponendo in questa settimana a cavallo fra Natale e Capodanno. Trasmissioni speciali sui temi che generalmente sono quelli che più frequentemente affrontiamo nella nostra trasmissione. E oggi parliamo di come investire in borsa. Non è esattamente un tema natalizio, ma sicuramente un tema interessante per molti di voi. L'ultimo anno è stato molto intenso per i mercati finanziari, che hanno ancora sopportato e stanno sopportando tutte le conseguenze di una crisi che è ancora piuttosto evidente, che rende le borse molto vulnerabili, anche se decisamente più stabili della fase più acuta della crisi, quella dell'autunno del 2008, quando gli indici, lo ricorderete, facevano da un giorno all'altro più 8, meno 8, più 10, meno 10. Adesso sull'otto volante sono finiti i titoli di Stato, soprattutto quelli dell'Eurozona, oscillano fortemente anche le valute. Però il quadro di borsa è stato di sicuro molto interessante negli ultimi mesi, e lo è ancora in questo frangente, per gli investitori un po' aggressivi, quelli che dall'incertezza di borsa sono capaci di trarre profitto perché capiscono i movimenti, colgono certi segnali in grado di anticipare tendenze e si muovono nelle acque del mercato azionario con una certa sicurezza. Come si dice però, anche se questa è un'espressione grammaticalmente brutta, rende l'idea, non si nasce imparati. Se si ha un'attitudine alla borsa, ma magari non si ha la padronanza per capire i movimenti, ci si può preparare bene da questo punto di vista, con qualche testo, con qualche libro giusto. Ne ha scritti molti su questi argomenti un consulente finanziario, ma che in realtà, come dire, definendolo solo in questa maniera è sicuramente una definizione molto riduttiva, Renato Di Lorenzo. Io tra l'altro lo saluto subito perché è qui in studio con noi quest'oggi. Buongiorno, buongiorno. La devo chiamare dottor Di Lorenzo, professor Di Lorenzo? Renato, andiamo così, facciamo, in amicizia quest'oggi. Facciamo come gli americani, insomma, non un lei informale, ma un tu, non un lei formale, ma un tu informale, perché effettivamente con Renato ci conosciamo da molto tempo. In onda la nostra redazione di tutti i libri che scrive, perché quasi tutti peraltro li scrive per Il Sole 24 Ore, con l'unica eccezione dei romanzi finanziari, poi quel capitolo magari, Renato, lo apriamo nell'ultima parte della nostra trasmissione. L'ultimo libro che ha consegnato proprio di natura molto professionale alle stampe è Come guadagnare in borsa con il trading veloce, ma questa è un'evoluzione di un altro libro già scritto in precedenza, Come guadagnare in borsa con internet, le tecniche del trading veloce, come comprare e vendere titoli in giornata o in pochi minuti. Ancora prima c'era stato Guadagnare in borsa, ancora prima Come non perdere in borsa, proteggere la posizione, gestire il rischio per guadagnare sui mercati finanziari. Come dire, titoli diversi per temi abbastanza simili. Il mercato è una continua evoluzione, anche perché abbiamo visto negli ultimi anni, peraltro provocando anche la crisi, come effettivamente si siano affacciati sul mercato strumenti finanziari molto diversificati, per cui effettivamente forse anche l'investitore più spregiudicato un po' di attenzione la deve fare. Sì, direi che c'è stata un'evoluzione abbastanza forte, abbastanza interessante. Cioè, una volta si comprava un titolo e lo si teneva, no? Si compravano i generali e poi si lasciavano ai nipoti. Il momento della vendita in pratica non veniva mai, oppure veniva casualmente. Non solo, ma c'era un grosso problema una volta, che era quello dei soldi, no? L'ammontare di denaro che uno possedeva per comprare le azioni, per cui il prezzo di un'azione moltiplicato il numero delle azioni comprate, quello lì era l'ammontare di denaro che uno poteva destinare. Recentemente i mercati finanziari poi sono delle idre che si adattano alle esigenze del cliente in misura immediata, istantanea, no? Fra l'altro abbiamo visto anche che creano dei problemi in questo modo. E per cui, diciamo, questi due problemi sono stati sostanzialmente ultimamente risolti, perché sono nati, diciamo, gli strumenti tali per cui si può gestire un certo ammontare di denaro disponendo solo di una piccola parte di quel denaro, che si chiama margine, e sono i CFD, sono i futures, sono tutte le cosiddette leve finanziarie, che appunto abbiamo visto quanto effettivamente abbiano anche amplificato la crisi che c'è saltata e piovuta addosso negli ultimi 4 anni. Esatto. È stato proprio un problema di leva, sì. Esatto, perché come hai detto te 5 secondi fa, la gente deve sapere esattamente che cosa sta facendo, e quindi quando adopera la leva, che è uno strumento in sé neutro, giusto, buono, deve anche sapere però che amplifica i profitti ma amplifica anche le perdite. Quali sono i temi più importanti affrontati dall'ultimo libro, appunto come guadagnare con il trading veloce? Il trading veloce, diciamo che è diventato uno stile che ha sostituito, diciamo, un'altra professione, no? Cioè, a dire, negli Stati Uniti c'è già parecchio tempo che ci sono delle persone che lasciano il lavoro e si dedicano soltanto a fare trading. In Italia sarà stata la crisi, però voglio dire, tante persone, fra l'altro io ricevo una quantità di email tutti i giorni e mi chiedono appunto se è possibile farla diventare una professione. Esatto, esatto, e la mia risposta è: a patto che diventi una professione, perché purtroppo la maggior parte delle persone in borsa perde. E perde perché pensa di essere nato imparato, no? Questo è il problema. È come per scrivere un romanzo, lo stesso. Mm-hmm. No? Si mette lì e scrive un romanzo e poi non è pubblicabile, insomma, no? Perché manca la scuola, manca la come tecnica. Per dire, anche se si ha una laurea in economia, anche nella più prestigiosa delle università, non è detto che poi si abbia un'attitudine a seguire con costanza l'andamento del mercato finanziario, perché può comunque scottare anche la persona dal punto di vista teorico più preparata. È anche tante volte una questione di pratica avere un corretto approccio in borsa, Renato? Sì, è una questione di pratica, è una questione di nervi soprattutto, è una questione di attitudine, ma è anche una questione di studio di una materia che nelle università non viene insegnata, viene soltanto, diciamo, indicata a volte, non sempre, ma comunque a volte viene indicata. Ma anche nelle università americane, non so, l'analisi tecnica sì, fino a un certo punto, ma analisi fondamentale sì, un po' di più, però ecco, sono strumenti che non vengono insegnati nelle università e poi bisogna applicarle. Fra l'altro, un altro delle evoluzioni che ci sono state ultimamente che aiutano in questo senso è il fatto che i broker mettono a disposizione dei conti di prova per cui uno può fare trading senza denaro, no? Per cui si misura col mercato e cerca di capire se è bravo, se non è bravo, se è capace o se non è capace, perché poi a un certo punto viene fuori anche il talento, no? Queste cose qua. Ebbene, magari che di queste prove se ne facciano parecchie prima di metterci del denaro vero e proprio. Abbiamo estratto una pillola da questo libro, sentiamola. Sarà stata la crisi economica, sarà un'evoluzione naturale, sta di fatto che, come negli Stati Uniti, sempre più persone, soprattutto lavoratori dipendenti ma non solo, vedono nel trading online veloce un vero secondo lavoro, magari in attesa di farlo diventare il primo, senza più capi e paure di essere licenziati, o anche di non trovare più un lavoro dopo averlo perso a 40 anni. Così, sempre più persone occupano una parte, non necessariamente preponderante, del proprio tempo davanti al PC, collegandosi alla piattaforma di uno dei molti brokers online, comprando e vendendo sui mercati mondiali titoli, opzioni, futures, CFD, oro, petrolio, eccetera. Il poco tempo che rimane a disposizione dopo il primo lavoro non è più un problema. I mercati sono aperti fino a tarda sera, per non parlare del più gettonato, il Forex, il mercato delle valute, aperto 24 ore su 24 e che al momento non ha neppure l'inconveniente della tassazione delle plusvalenze realizzate. Fino a poco tempo fa esisteva un'altra forte controindicazione al trading online veloce, scalping e day trading, oltre a forme più sofisticate, la non lieve entità del capitale di cui disporre. Ma i mercati finanziari sono delle idre flessibili, anche troppo, che corrono a coprire un bisogno non appena si manifesta. Oggi, infatti, in molti settori si possono gestire importi anche 200 volte superiori al capitale di cui si dispone. È tutto così semplice? Per niente. E stavo leggendo appunto, non da quest'ultimo libro, ma da un altro del professor Di Lorenzo, di Renato Di Lorenzo, Guadagnare in Borsa, una mail di una persona appunto che gli ha scritto e che diceva: buonasera professore, mi sono affacciata al mondo della borsa da circa 3 mesi, ma mi sono presto accorto che è molto difficile, molto più difficile di quanto pensavo per imparare a fare trading, e quindi ho deciso di studiare nel suo libro. Mi ha stupito molto questo approccio di chi inizia davvero dal nulla, senza saperne niente, ma io mi chiedo appunto come ci si possa decidere di avventurarsi in un mondo come questo senza effettivamente avere una minima base. Peraltro, tra l'altro, nei tuoi libri, Renato, come dire, il tema dell'analisi fondamentale, dello studio, cioè dei bilanci delle società quotate, viene completamente lasciato da parte? No, assolutamente. Ad esempio, in quello che è stato il primo che ha venduto di più, che è Come guadagnare in borsa, senza altri attributi, Direi che la maggior parte dell'analisi è fatta sull'analisi fondamentale. L'analisi fondamentale si adatta poco a chi vuol farlo diventare, diciamo, questa attività la vuol far diventare un secondo lavoro o addirittura un primo lavoro, perché richiede tempi molto lunghi. Cioè, se uno compra un titolo perché ha un bilancio meraviglioso, non è mica detto che il giorno dopo il prezzo salga, anzi può darsi benissimo che scenda, perché ci vuole il suo tempo perché il mercato recepisca, diciamo, che quello è un buon bilancio. Non solo, ma il fatto che quello sia un buon bilancio, il mercato lo sa già. Noi siamo sempre gli ultimi a saperlo, no? Perché vengono fuori notizie, ma gli addetti ai lavori le sanno già queste cose. Le asimmetrie informative. Sì, esatto. C'è chi conosce prima le cose, ovviamente, di noi. Esattamente, per cui diciamo quello che uno deve azzeccare quando fa analisi fondamentale non è se il bilancio è buono, perché quello lo vede, ma deve capire se sarà buono in futuro, no? Apple 15 anni fa valeva $12, adesso ne vale 300, però in quel momento il bilancio aveva delle cose meravigliose, tipo una liquidità maggiore del prezzo di borsa, però c'erano dei dubbi che potesse effettivamente andare avanti a quella maniera. Poi è arrivato Steve Jobs e vabbè, insomma, ha rimesso tutto a posto, no? Però ecco, diciamo, l'analisi fondamentale si adatta poco a farlo diventare, appunto, per una persona comune, farlo diventare un secondo lavoro. Anzi, magari il trader, il più aggressivo, può anche addirittura avventurarsi proprio nella movimentazione con profitto di quei titoli che magari in realtà hanno tutt'altro che un buon bilancio, ma proprio per questo motivo sono più soggetti alla volatilità del mercato, perché vengono costantemente ad essere oggetto magari di report positivi e negativi da parte degli analisti. Quindi in realtà, paradossalmente, forse le società che hanno un ottimo bilancio sono quelle che possono avere e manifestare un andamento più costante con la borsa e possono oscillare meno, quindi essere molto meno interessanti per i trader più scaltri. Sì, infatti, assolutamente, questo è assolutamente vero. È venuto a cadere quell'altro vincolo, diciamo, che c'era una volta, che era quello di mettersi al ribasso, no? Una volta vendere allo scoperto era qualcosa di considerato anti-americano, no? Anti-italiano. Invece no, è esattamente lo stesso con gli strumenti moderni, è esattamente lo stesso comprare e vendere, perché se io compro dall'altra parte c'è qualcuno che vende e se io vendo dall'altra parte c'è qualcuno che compra. Evidentemente, se io vendo devo essere confidente del fatto che il prezzo scende, perché poi lo devo ricomprare e spero di ricomprarlo quando il prezzo è più basso. Certo. Che differenza c'è, Renato, tra il trader e lo scalper? No, il trader è la categoria di queste persone poco sane di mente, no? come il sottoscritto. Lo scalper è una sottocategoria, le categorie grosso modo sono lo scalper, il day trader, lo swing trader e il position trader. Wow, questa è un'evoluzione che neanche io conoscevo. Lo swing trader cosa fa? Lo swing trader tiene i titoli mediamente una settimana o due, no? Il position trader le tiene una vita, no? È quello che comprava le generali. Quindi proprio in relazione a, come dire, hanno sostituito il concetto del breve termine, del medio termine, esatto, del lungo termine, esatto, e esatto, hanno adottato una terminologia più appropriata, esatto, all'attività di trading. Esatto, il day trader è quello che chiude comunque la posizione alla fine della giornata, perché non vuole beccarsi la differenza di prezzo tra chiusura e apertura. Vuole dormire sonni tranquilli, esatto, diciamo così. E lo scalper è uno che chiude comunque la posizione alla fine della giornata, però si accontenta di portare a casa una manciata di centesimi ad ogni operazione, per cui fa una tonnellata di operazioni. E quindi deve andare su strumenti che hanno un costo della transazione molto basso. Commissione, ma anche spread denaro lettera molto basso, no? Per cui in pratica deve adoperare futures e CFD, non può adoperare nient'altro. Magari poi apriremo proprio a questo proposito anche il capitolo delle piattaforme, perché anche in questo caso ne sono nate tante ultimamente sul nostro mercato. Ogni banca sicuramente si è dotata della sua piattaforma, sono nate delle piattaforme assolutamente specializzate invece per questo settore, e quindi qualche volta bisogna anche avere delle precauzioni o comunque degli accorgimenti per poter scegliere quella che fa al caso nostro. Il gergo dell'analisi tecnica, io le parole fondamentali me le ricordo: resistenza e supporto, la media mobile a qualche settimana, trend rialzista e ribassista, ma sicuramente tutto il gergo dell'analisi tecnica non si racchiude qua. Intanto, che cos'è l'analisi tecnica? Lo ricordiamo, perché questo è il parametro fondamentale, credo, dell'attività del trader. L'analisi tecnica è, diciamo, la consapevolezza, comunque la decisione di guardare il mercato così com'è, guardarlo in faccia, senza presupposti, senza pensare a che cosa c'è dietro. per cui non vengono guardate le news, non viene dato peso a nient'altro eccetto che i movimenti del mercato, che molto spesso però è un atteggiamento molto, molto intelligente, no? Perché se si va dietro alle news veramente poi abbiamo avuto dei grossi problemi da quel punto di vista, no? Per cui si guarda. Beh, però magari se una società proprio vicina alla bancarotta improvvisamente magari l'analisi tecnica non lo dice, o sì se c'è un andamento di abbastanza. Perché si sanno queste cose sul mercato, per cui il primo che ne risente è il prezzo immediatamente. Per cui si guarda il prezzo, l'andamento del prezzo così com'è, a volte anche quello dei volumi, ma insomma ormai si guarda soltanto il prezzo. Per cui il grafico sostanzialmente, il grafico del prezzo, e quindi si ricorre a quelle categorie che hai giustamente menzionato, che sono poi sostanzialmente la base, cioè puoi fare analisi tecnica con quelle, non è che c'è bisogno poi di tante. Meglio di no, non mi avventuro. No, tra l'altro definiamole magari questi termini che ho dato, resistenza e supporto, insomma. Sì, resistenza e supporto sono delle rette, per lo più orizzontali, ma non è detto che siano orizzontali, contro le quali il prezzo nel suo andamento abbastanza isterico picchia, no? Batte e poi viene respinto. Al di sopra di quel prezzo non va per un certo periodo, al di sotto di quel prezzo non va per un certo periodo, esatto. Quindi proprio come un muro invalicabile, nell'alto e nel basso. Però c'è un motivo, no? Nel senso che evidentemente è una grossa parte del mercato a quel livello o vende o compra, no? Perché sennò il prezzo non si muove, c'è poco da fare, no? Quindi vuol dire che c'è una grossa parte del mercato che è arrivata a un certo livello di prezzo, ad esempio per una resistenza non ha nessuna intenzione di andare oltre, pensa che quello sia il prezzo giusto e vende. Nel momento in cui il prezzo salisse al di sopra di quella retta di resistenza, è evidente che ha cambiato il mercato, no? Cioè dire, c'è della gente che pensa che quello non sia più il prezzo giusto, ma che il prezzo giusto sia più alto, e allora ci si può accodare e mettersi al rialzo in quel caso, no? Quindi supporto e resistenze servono a questo, e come ti ho detto è una cosa molto semplice in fondo, bisogna farci un po' l'occhio, ma insomma è semplice e funziona abbastanza bene, no? Se uno non vuol diventare Soros qualche soldo lo fa, no? con questi piccoli strumenti, perché guarda il mercato così com'è, no? Lo interpreta per quello che è la domanda e l'offerta. Tra tutte le persone che vengono a seguire i tuoi corsi, quali sono le domande più stravaganti che ti senti rivolgere? Dunque, io ho un gruppo di affezionati che si riunisce una volta all'anno a Milano, una volta al mese a Milano, in un sabato, no? un sabato lo dedichiamo a questo. Devo dire che nella buona sostanza loro mi chiedono due cose, che sono le due cose fondamentali di chi tenta di fare queste attività. La prima cosa è di avere un trading system, cioè un qualche cosa che dice quando comprare e quando vendere, no? E questa è la parte più banale, ovvio, tutti quanti lo cercano. Se lo sapessimo, certo, se ci fosse proprio una regola base per tutti. Quello che è necessario fare quando si approntano questi protocolli è che statisticamente diano un tasso di successo almeno del 60%, perché se no non tornano i conti, no? E ci si riesce, non è così difficile. L'altra parte, che secondo me, delle loro domande, delle loro esigenze, che secondo me è la parte più importante, è quella di controllare il rischio invece, no? Cioè, in fondo il trading system che dà dei segnali buoni si fa, non è un grosso problema. La parte difficile invece è quella di sapere a che punto tagliare le perdite, perché il mercato mi sta dando torto, e questo è difficilissimo, soprattutto per un newcomer. Lo stop loss. Esatto. E l'altra parte è quella di sapere dove portare a casa il profitto, no? Perché il mercato mi dà ragione, il prezzo sale, sto guadagnando un sacco di soldi, entra in gioco il desiderio di guadagnare sempre di più. E poi magari il mercato gira invece, no? A quel punto lì. E quindi non si porta a casa nemmeno il guadagno che si era fatto. È chiaro che ogni situazione ha la sua individualità, Renato, ma quali sono generalmente tu i limiti che suggerisci? Da questo punto di vista? Ah no, qui c'è. È una tecnica questa, cioè no, non è una questione numerica, cioè è proprio una tecnica, e una delle tecniche che io suggerisco è quella della gabbia di Corinna. Bellissima, che è la famosa. Corinna è la famosa. Il personaggio dei prossimi romanzi? Dei prossimi romanzi finanziari, sì. E come ingabbia i trader, Corinna? Allora, Corinna ingabbia i trader fissando uno stop loss, ovviamente, che deve essere rispettato come se fosse scritto col sangue, perché se non lo si rispetta si perde. E lo stop loss viene stabilito con un calcolo che si trova fra l'altro anche sui siti internet, che è l'average true range, ATR, no? Quindi se uno va a cercare su internet lo trova. Dopodiché invece i take profit, laddove mi porta a casa il profitto, sono due quelli che, perlomeno questa è la tecnica che consiglia Corinne, sono due, sempre determinati con l'average true range, però con una tecnica che secondo me è simpatica. Perché la diciamo dopo la nostra prima pausa, Renato, okay. Manteniamo un po' questa suspense con la gabbia di Corinne, andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo. Ci ritrovati a Salva Danaio, un'altra puntata speciale natalizia, proprio sono le puntate che vi stiamo proponendo in questa settimana a cavallo tra Natale e Capodanno. Oggi parliamo di come investire in borsa con i suggerimenti di Renato Di Lorenzo, che è sicuramente una figura molto conosciuta fra gli appassionati di trading online, ma in realtà per il Sole 24 Ore ha scritto tantissimi libri anche proprio con l'ABC del come investire in borsa e come guadagnare in borsa. È un consulente finanziario, oggi direi che fa quasi l'educatore su questi temi a tempo pieno, Renato, giusto? Sì, direi proprio di sì. Ecco, con uno spazio anche molto interessante che ha ricavato nell'ambito letterario, perché adesso, no, negli ultimi anni ne ha scritti tanti di romanzi appunto proprio a sfondo finanziario, e adesso ne sta consegnando altri alle stampe, una serie di volumetti con una protagonista della quale abbiamo appena terminato di parlare nella prima parte della nostra trasmissione, perché abbiamo introdotto il concetto della gabbia di Corinne. Corinne Croff è proprio la protagonista dei prossimi romanzi. Quando escono, Renato? I primi due sono in libreria a febbraio, sempre per il Sole 24 Ore. Benissimo. Magari poi ti rinvitiamo e in una puntata serena sotto carnevale magari facciamo una puntata anche con il romanzo di Corinne Croff. Allora, perché abbiamo parlato prima della gabbia di Corinne? Perché abbiamo così cercato di spiegare ai nostri ascoltatori come ci si dovrebbe ingabbiare quando si decide appunto di fare trading online, quando ci si deve accontentare dei guadagni conseguiti e quando si deve anche individuare un limite alle perdite che questo investimento può subire, Renato. Sì, bisogna assolutamente mettere uno stop loss, cioè facciamo un esempio numerico a caso: entro, compro un titolo a 10 euro, inserisco immediatamente nel mercato uno stop loss a 9 euro, dico un numero a caso assolutamente, a 9 euro, il che significa che se mi sono sbagliato il mercato scende, come tocca a 9 euro l'ordine viene eseguito, quindi io esco con una perdita che ho però ho preordinato, che posso sopportare sia in termini patrimoniali sia soprattutto in termini emotivi. Psicologici, esatto, no? È quello, perché se uno poi ha paura poi comincia a sbagliare, no? Per cui deve essere sicuro. Dopodiché inserisce nel mercato anche degli ordini take profit che vengono eseguiti soltanto se il mercato mi dà ragione, cioè se incomincia a salire, no? Ad esempio, di nuovo, numeri a caso, a 12, a 14, ne metto due, Corinne dice di metterne due di questi take profit. Perché? Perché se arriva a 12 non ha senso tarparsi le ali, perché può darsi che continui a salire. Allora il mio stop loss lo prendo da 9, lo metto a 12 e rimango nel mercato. Però se poi arriva a 14 è inutile che io continui a starci, perché è già salito molto. Infatti, no? Insomma, la verità, ecco, magari è meglio metterla da parte, esatto. Qualche volta. Esatto, sì. Tra l'altro c'è, proprio relativamente all'aspetto che stavamo affrontando adesso, c'è un altro teorema, chiamiamolo così, che circola molto nella finanza, è che il costo di una perdita è generalmente molto più elevato rispetto ad un guadagno anche molto importante fatto in borsa, cioè non si possono paragonare i due. No, assolutamente, perché la perdita incide moltissimo sulla capacità di stare con i nervi sardi, no? Tutti coloro che accettano, che affrontano i mercati finanziari, sono portati a pensare che con un buon trading system non ci siano perdite, no? E allora la prima perdita incominciano a stare male, la seconda non ne parliamo, la terza il PC vola fuori dalla finestra, no? È così che va, è garantito. Per cui bisogna sempre dimensionare le perdite in modo tale che, dicono gli americani, non ci facciano vomitare, no? Nel senso che prende la paura veramente. No? Infatti, sempre meglio, magari non so se anche questo è il suggerimento che tu dai o che, come dire, tra voi esperti del settore date, costituirsi un budget di base, è quello esclusivamente destinato appunto a fare trading, magari non intaccare ovviamente quel conto corrente di famiglia, piuttosto che quel patrimonio appunto che serve alla gestione del budget familiare, della finanza familiare, e quindi, come dire, come far convivere parallelamente i due mondi, ma sicuramente senza farli mai contaminare, intrecciare. Sì, assolutamente, ma voglio dire, questa è una vecchia ricetta di quelli che vanno a giocare a Monte Carlo, no? Che entrano al casinò soltanto con 500 euro e quelli sono, non devono essere di più, no? Per cui la regola è la stessa anche per chi opera in borsa. Evidentemente la situazione è molto diversa, perché chi opera in borsa o sui mercati finanziari comunque ha delle tecniche, quindi è capace di gestirle, mentre invece al casinò no, quello che viene, insomma, no? Però il concetto è esattamente lo stesso, il concetto è che bisogna saper dimensionare le perdite e dimensionare le proprie ambizioni, assolutamente. Andiamo invece all'altro aspetto che è molto importante per effettuare un investimento attraverso i sistemi di trading online, cioè come si fa a cogliere i segnali e quindi quanta anche esperienza si deve maturare prima di intercettare quelli giusti e che servono a gestire al meglio il nostro portafoglio. Un'altra pillolina tratta dal libro di Renato Di Lorenzo, Come guadagnare in borsa con il trading veloce. Si pensa di solito che guadagnare sui mercati finanziari sia un affare di segnali. Se ho un trading system che mi dà i segnali giusti per acquistare o per vendere, sono ricco. Questa è solo metà della storia, perché nessun trading system mi darà sempre i segnali giusti. L'altra metà della storia, forse anche la più importante, è saper gestire le perdite. In altri termini, io devo essere capace di mettere in piedi un protocollo che mi fa guadagnare di più quando guadagno di quanto mi fa perdere quando perdo. E per introdurre questa asimmetria sono essenziali gli ordini stop e la valutazione della volatilità del titolo. Allora, si pensa di solito che guadagnare, diceva la pillola, sui mercati finanziari sia un affare di segnali. Lo si pensa, non è così, quindi, Renato? No, ci vogliono i segnali, però, ripeto, è solo metà della storia, perché se io ho un buon segnale di ingresso e però non gestisco la posizione, ad esempio con la nostra gabbia di Corinna, non ho punti di riferimento. Se il mercato mi sta dando ragione, io incomincio a guadagnare, dove mi fermo? Normalmente interviene il desiderio di guadagnare sempre di più, e però ricordiamoci che sui mercati finanziari una perdita del 20% dalla sera alla mattina è possibile, no? Per cui se sei troppo ansioso, troppo desideroso di fare profitti e non hai dei punti di riferimento, finisce che perdi, no? Questa è la buona sostanza, perché la maggior parte delle persone che agiscono senza, diciamo, una tecnica, normalmente perde in borsa, proprio per questi motivi. Renato, queste teorie e anche questi insegnamenti pratici che tu dai per chi si vuole avventurare sul terreno appunto del trading online valgono anche, per esempio, per tutti coloro che negli ultimi mesi, complice la crisi finanziaria, sono per esempio rimasti scottati dall'investimento sul mercato obbligazionario? Noi sappiamo molto bene come il titolo di Stato sia sempre stato considerato come la cassaforte migliore per il nostro investimento, invece abbiamo visto quanto possa diventare volatile e pericoloso e anche aggressivo in certi momenti anche un investimento di questo tipo. Secondo te le regole per il trading online possono valere anche per chi invece mantiene inalterata la sua posizione di fiducia verso il titolo di Stato? Sì, qui la storia è un pochettino diversa, perché si può fare trading con il titolo di Stato esattamente come si fa con qualunque altro titolo. C'è un grosso problema, che sul titolo di Stato il costo della transazione è molto alto rispetto al future o al CFD. Per cui diciamo che comunque bisogna fare comunque posizione, non si può fare un trading veloce, però si può fare trading. Il problema è che la maggior parte delle persone che comprano i titoli di Stato, anche semplicemente non per fare trading, ma per comprare i titoli di Stato punto e basta, non guardano sul Sole 24 Ore la colonna della duration, non la guardano, per cui non si rendono conto che ci sono dei titoli. Adesso, vabbè, il caso estremo è il trentennale, non si rendono conto che ci sono dei titoli che perdono in termini di prezzo, quindi di valore sul mercato, delle percentuali spaventose nel momento in cui invece i tassi a breve si muovono, ad esempio, no? Stiamo parlando del 10-20%, cioè non sono scherzi, e che possono succedere dalla sera alla mattina, fra l'altro, queste cose qua. Ragion per cui, ovviamente, se uno va su titoli ad alta durata, quindi ad alta duration, ha dei rendimenti maggiori. Però se poi deve mandare il figlio al college, come si dice negli Stati Uniti, che li deve vendere, li vende al prezzo di mercato in quel momento. Per cui anche la gestione dei titoli di Stato deve essere fatta con una certa professionalità. Per cui per i titoli di Stato bisogna mettere in piedi un portafoglio che abbia sia durate lunghe sia durate brevi. Le durate lunghe servono per far aumentare un pochettino il rendimento medio del portafoglio, però bisogna stare attenti che quelle durate lunghe bisogna essere consci del fatto che quelle non si toccano, perché può andare bene ma può andare male in termini di movimenti dei tassi e quindi di movimenti dei prezzi. Una trasmissione a parte che dovrebbe durare circa 5 ore meriterebbe invece il capitolo delle valute, perché anche su questo terreno negli ultimi anni molti investitori completamente privi di esperienza si sono avventurati e hanno pagato anche molto alto lo scotto di scelte di questo tipo. Peraltro mi insegnano, quando faccio trasmissioni su questo argomento, Renato, che quello è il mercato, il primo mercato che non dorme mai, per cui lì davvero forse per il trader, il day trader, non c'è posto. Comunque sì, voglio dire, si può anche andare a dormire la sera tranquillamente chiudendo le posizioni, anche se quello è un mercato che continua, non è come la borsa in sostanza che a 5 e mezzo chiude e il mattino dopo si possono riaprire appunto delle posizioni. Sulle valute insomma l'approccio deve essere assolutamente molto più cauto. Le valute hanno un costo della transazione bassissimo ed è un mercato, diciamo, che è perfetto per chi vuol fare trading veloce, no? Proprio per questo, perché il costo della transazione è molto basso, per cui scalping si può fare senza perdere tonnellate di quattrini soltanto perché si è comprato e venduto rapidamente. Dove di nuovo la gente tende a sbagliare è sul pensare, diciamo, che ci siano delle variabili fondamentali che regolano in qualche modo le valute in termini anche a breve termine, no? Questo non è vero, questo è assolutamente è uno dei mercati, appunto, essendo molto soggetto, diciamo, al trading veloce, è uno dei mercati che, sui quali si fa peggio l'analisi fondamentale, no? Il prodotto interno lordo, tutte queste cose sono tutte variabili che agiscono a lungo termine, non agiscono immediatamente, no? E mentre invece le persone che vedono che il Forex è un mercato, appunto, così bello, no? così sul quale ci si può sbizzarrire veramente, si gestiscono a montare dei quattrini enormi con piccoli investimenti, $1 milione, no? Chi l'ha mai visto $1 milione? Lo gestisce con pochi soldi, con $500, qualcosa del genere. Però poi $1 milione, i profitti e le perdite vengono fatti su $1 milione, non vengono fatti sui $500, no? Quindi, diciamo, la gente pensa che si possa fare trading veloce in un mercato così bello, con degli strumenti così belli, fidandosi, diciamo, del fatto che la BCE alza i tassi o abbassa i tassi, eccetera eccetera. Non è così, e negli ultimi mesi lo abbiamo visto in maniera assolutamente chiara e netta. Ci rifermiamo per la nostra seconda pausa tra pochissimo. Ed eccoci all'ultima parte della nostra trasmissione, del nostro Salvadanaio. Oggi parliamo di come investire in borsa, soprattutto se si ha un approccio un po' più aggressivo, quasi più coraggioso, se si ha quell'attitudine a cogliere certi segnali del mercato e se si ha una certa attitudine anche all'analisi tecnica, allora si può anche fare del trading online. E questa mattina ci stiamo facendo dare, come dire, l'ABC dell'investimento su questo segmento da Renato Di Lorenzo, che è un consulente finanziario, uno scrittore, un romanziere anche di romanzi che hanno una natura, uno sfondo finanziario molto interessanti. Ne sta consegnando di nuovo proprio al Sole 24 Ore, li ritroveremo in libreria a partire da febbraio. C'è un'eroina finanziaria, peraltro, si chiama Corinna Croft, ma soprattutto il suo ultimo libro è Come guadagnare in borsa con il trading veloce, ed è un'evoluzione ulteriore di un libro precedente che è Come guadagnare in borsa con internet, le tecniche del trading veloce, come comprare e vendere titoli in giornata o in pochi minuti. Ma insomma, dovrei stare a parlare mezz'ora solo per ricordare tutti i libri che Renato Di Lorenzo ha scritto, e questa mattina ci sta dando un po' la sua visione, anche il suo punto di vista rispetto a quello che è stato l'atteggiamento dei trader negli ultimi mesi con questa crisi finanziaria. Peraltro, Renato, proprio quello che ti volevo chiedere prima, così abbiamo bypassato un po' l'argomento, ma mi piacerebbe sentire che cosa hai osservato di interessante in questi ultimi 3 anni in cui la borsa ha messo alla prova anche gli scalper più aggressivi. All'inizio della trasmissione parlavamo di come la crisi sia stata enfatizzata, anche perché magari disponendo di poco patrimonio molti investitori sono riusciti ad amplificare a dismisura i fenomeni finanziari che abbiamo visto, provocando anche la crisi che ci ha travolto. Però insomma, ecco, quali altri spunti interessanti ti hanno suggerito la crisi che ancora stiamo attraversando? Ma direi sostanzialmente il maturare del desiderio della gente di approcciare i mercati in maniera professionale, cioè la gente cerca di capire. cerca effettivamente di comprendere, ad esempio in questo momento vanno abbastanza male le newsletter, no? Cioè le newsletter su internet ne girano miliardi. Nella newsletter sostanzialmente si dice compra Fiat, no? Oppure compra Generali, oppure vendi le Fiat, eccetera, eccetera. La gente non apprezza più questo servizio, vuole capire perché uno dice, sta consigliando di comprare Fiat o Generali o di venderle, eccetera, eccetera. Cioè, chiedono di vedere messa alla prova l'analisi tecnica, questo è il punto. Non si fidano più né del libro scritto, perché ovviamente non è sufficiente. D'altronde il giorno prima del fallimento di Lehman Brothers tutti dicevano che non sarebbe mai stata lasciata fallire, per cui è chiaro che la sfiducia è stato poi il tema dominante anche delle scelte di investimento degli ultimi anni. Esatto, esattamente, sì, tutte delusioni, ma delusioni anche che sono venute da tanti fronti. Insomma, la gente vuole capire, legge dei libri, ad esempio i miei o ce ne sono altri, di analisi tecnica, poi vuole metterla all'opera e non vuole più che gli si dica vabbè adesso compra, adesso vendi il titolo, no, vuole vedere messa all'opera la ricetta in modo tale poi da poter fare da sé. Questo è il desiderio che hanno, perlomeno una parte. Vorrei chiamarla più illuminata, ma non è così, insomma, cioè una parte che maggiormente tenta di essere informata delle cose, no? Non vuole più essere bruciata, tanto per intenderci. Perché questo? Perché all'inizio il trader era masochista. All'inizio il trader era un masochista. Si svegliava presto al mattino, correva a comprare il Sole 24 Ore e mentre tutto ancora dormiva riempiva accurati fogli protocollo con puntini che uniti formavano i grafici a zigzag degli amati titoli. A metà mattina quindi usciva dall'ufficio con la scusa del caffè e faceva la coda in banca, allo sportello titoli, fra i bot people, per passare gli ordini a un impiegato che a sua volta li passava in sede per telefono. L'eseguito arrivava a casa con la posta 3 o 4 giorni dopo. L'attività di vigilanza sulla borsa oggi non funziona particolarmente bene. Se la piglia con i piccoli anziché con quelli che sono il vero problema, cioè i grossi, vedi casi Parmalat, Cirio, Bond Argentini, eccetera. Figuriamoci quindi come funzionava allora che non c'era nessuna vigilanza. La borsa era nelle mani di quei furbacchioni degli agenti di cambio. Poi è arrivato finalmente internet. È solo con internet che il trader ha potuto mettersi attaccato al monitor a casa sua, per provare realmente a camparci. Attitudine e tendenza che adesso hanno in molti, come ci spiegava prima Renato Di Lorenzo. Questa è una parte, questo stralcio che abbiamo appena proposto ai nostri ascoltatori, tratta dal libro Guadagnare in borsa di Renato Di Lorenzo per l'appunto, e il seguito di questa frase sarebbe: vediamo adesso quali sono gli strumenti migliori, gratis, disponibili appunto al momento di scrivere. Questo è un libro già di qualche anno fa. Questo per arrivare a chiederti, Renato, insomma, per chi ha una modesta conoscenza della borsa ma vuole convertire davvero la propria professione, diventare un trader per farne la propria professione, perché adesso c'è effettivamente forse anche chi ha bisogno di fare questo, si guarda intorno non avendo niente di più concreto a disposizione, perché no, magari dice questo potrebbe essere anche uno sviluppo interessante per la mia crescita professionale. Per esempio, come si fa a scegliere la piattaforma giusta? Intanto bisogna sapere che cosa si sta cercando, per cui bisogna si procede in tre passi. Il primo passo è quello di studiare, ma tanto, insomma, cioè cercare di rendersi conto effettivamente se si è capito, no? L'analisi tecnica, tutti gli algoritmi, eccetera, eccetera. Secondo passo, fare trading online senza denaro vero, no? Cioè mettere il pollice nell'acqua e vedere se è fredda quest'acqua, no? E questo si può fare ci sono delle piattaforme gratis, cioè piattaforme, sono dei siti internet gratis, ad esempio uno è Pro Real Time ed è bellissimo, si può costruire il proprio trading system, può vedere se funziona, se non funziona, ce ne sono, non tanti, però insomma ci sono. Una volta che si è capito che si è capace di farlo, che il proprio trading system funziona abbastanza bene, eccetera, eccetera, allora effettivamente si tratta di scegliere la piattaforma giusta. E la piattaforma giusta è quella che fornisce il maggior numero di indicatori possibile. Ci sono delle piattaforme che sono molto povere di indicatori, perché uno quando fa analisi tecnica ha bisogno di tanti indicatori, non per consultarli tutti, ma per scegliere quello che fa più. Quali sono quelli irrinunciabili? Ah beh, lo stocastico lento, ad esempio. Lo stocastico lento, ah, però. Sì, sono nomi immaginifici. Che cos'è lo stocastico lento? Ah, è un oscillatore, non niente di particolare. Però quello, insomma, per chi anche inizia a fare trading. Sì, ma è molto semplice. Mm. Cioè, sono cose che hanno più è più difficile dirle, diciamo, chiamarle con il loro nome. Sì, per voi ormai sarà diventato come parlare, insomma, no, di. Ma poi se uno va a di vedere. Di Belen Rodriguez e Fabrizio Corone, in sostanza, sì. No, ma se uno poi va a vedere, insomma, sono delle formuline da quattro soldi. Certo, e poi quali altri? No, direi che poi ci vogliono delle medie mobili esponenziali, anche questo è molto difficile da dire, ma sono cose molto semplici, e poi fra l'altro sono già fatte, no? Per cui uno non deve rompersi la testa. E poi ecco un parametro molto importante che non è tanto facile trovare è quello che dicevo prima, l'ATR, che è Leverage True Range, che è semplicemente una misura di volatilità. Anche questa ha un nome antisonante, ma è una sciocchezza, perché la volatilità mi serve per stabilire il rischio che sto correndo. Cioè io metterò ad esempio lo stop loss, lo metterò al di sotto del prezzo di ingresso se sono lungo, se no lo metto al di sopra, anche qui bisogna stare un attimo attenti. Lo metterò al di sotto del prezzo di ingresso se sono lungo di un ammontare pari alla volatilità. Perché? Perché se non diciamo il prezzo non oscilla al di fuori della volatilità, allora vuol dire che è successo qualcosa, ma se rimane dentro a quella fascia vuol dire che non è successo niente, che è volatilità normale quella. Per cui una piattaforma che non abbia l'ATR, ad esempio, è molto sospetta, no? Non sospetta nel senso che ne vada a cercare un'altra, cioè c'è una concorrenza che fa paura, no? Per cui. Infatti, comunque ci siamo già addentrati nel mondo del dettaglio che forse abbiamo anche esagerato un po' per i nostri ascoltatori. Mi incuriosisce però, Renato, conoscere una cosa personale che ti riguarda. Insomma, tu facevi il consulente d'impresa qualche anno fa. Come è avvenuto questo passaggio verso il mondo del trading online? Perché lo facevi tu in prima persona, per cui ti hanno appassionato i meccanismi che stanno dietro certe scelte, o forse hai trovato che magari non c'era un'adeguata modalità di comunicazione e di informazione intorno a questo mondo verso anche appunto chi iniziava da zero, e quindi forse hai voluto colmare una lacuna, non lo so. No, io facevo il consulente di management, di direzione organizzazionale, ma lo faccio ancora, lo faccio tuttora. E insegnavo all'Università di Bologna e ero in contatto con gli americani, ma stiamo parlando già di parecchi anni fa, una cosa mi disturba un po'. e mi sono accorto che negli Stati Uniti c'era un'analisi tecnica, in Italia non c'era. Ah, ecco. No? E allora la curiosità di capirla, poi l'ho elaborato, cioè ho elaborato sotto, sopra, ho pubblicato anche negli Stati Uniti delle cose carine. E poi è venuta da sola, no? Direi che complice anche il Sole 24 Ore, che ha cominciato a pubblicarmi i libri, per cui sono rimasto coinvolto. Evidentemente c'era un mercato che andava soddisfatto. Ci mancano pochissimi minuti di tempo, due direi di chiudere in bellezza, magari facendoci anticipare da te qualche dettaglio in più rispetto alle avventure di questo personaggio, questa, mi viene da dire, eroina finanziaria, perché vivere a New York e pagarsi le bollette è veramente un'azione eroica. E però questa Corinna Croft come ha deciso di farlo? Corinna Croft ha 25 anni, è piuttosto bella, è molto molto in gamba, molto intelligente, tenta di farcela a New York. Il suo obiettivo è quello di vincere il Pulitzer, no? Quindi mica cotica, no? Insomma, quindi è una giornalista. Una giornalista, esattamente, no? Però è sempre nei guai col suo capo, no? Perché fa le cose che le piace fare e non vuol fare le inchieste invece che non vuol fare. Intervista dei trader, capisce che si tratta di una bella sfida e diventa una trader lei stessa. Tutti i romanzi finiscono che ha guadagnato un milione, come il signor Bonaventura. Ah, però volta. Insomma, devo leggerli attentamente quando usciranno. Sono fuori anagrafe, sono fuori età per magari vivere l'esperienza di Lara. Ma non ho capito, Croft o Croft? Croft. Proprio come l'eroina, come, esatto, Lara, come Lara, per cui abbiamo detto bene, insomma, una vera e propria eroina. Renato, noi potevamo dire tante altre cose in questa trasmissione, ci siamo accontentati di poco, però il tema è il trading online, stiamo attenti, non è per tutti, quindi come dire la prima raccomandazione è quella, poi però studiando bene ci si può avventurare anche magari non investendo e dilapidando il nostro patrimonio, però ci si può provare. Assolutamente, assolutamente. Benissimo, sì. Grazie allora al prossimo libro, intanto buon anno. Grazie a voi. Grazie buon anno a Renato Di Lorenzo, a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Paolo Corleone in assistenza tecnica, torniamo domani, buona giornata.